La fine dell'uomo. Un ciclo di 6 appuntamenti all'insegna della fantascienza radicale. Ogni seconda domenica del mese, a Piano Terra, Milano. Questa è la registrazione del secondo incontro del 10 febbraio 2019. Parliamo della disneificazione del reale, con Clara Zanardi e Alberto Di Monte. Classica breve introduzione per chi non ci conoscesse: questo è lo spazio sociale Piano Terra. L'attività, sulla scorta anche di un ciclo fatto l'anno passato in ricordo e in memoria di Primo Moroni e Antonio Caronia, è un nuovo ciclo di 6 appuntamenti ogni seconda domenica del mese, in cui ci interroghiamo su questo allegro tema che è appunto la fine dell'uomo, inteso non soltanto come la fine dell'umano come specie, come maschio alfa, come soggetto WASP, ma come alla conclusione del secolo che ha segnato la fine delle utopie, un'esigenza di cambiamento che spesso interpretiamo in ambito sociale, politico, ideologico, economico, ma anche culturale, artistico, un'esigenza non soltanto di rivoluzione ma di trasformazione del soggetto. E il secondo di questi appuntamenti, dopo la prima puntata in compagnia di Roberto Paura, dal titolo Evoluzione e Catastrofe, si interroga sul tema della disneificazione del reale. Vediamo se riusciamo. Yes. Allora, questa sera abbiamo in nostra compagnia un ospite, anche questa volta, e lo schema che abbiamo immaginato per questi appuntamenti è quello di una serata in 3 momenti. Anzitutto il dialogo, quindi una chiacchierata anche informale con una prima parte di esposizione e poi un confronto, quindi non soltanto domande ma uno scambio tra pari. In seconda battuta il convivio, per cui ogni volta di puntata in puntata andremo a inventare e proporre ai vostri raffinati palati delle ricette fantascientifiche che replicano un po' la classica spaghettata cinematografica in salsa 3.0. E poi ovviamente il Cine Senza Forum, che è una delle tradizioni del Piano Terra: ogni domenica cinema di ieri e di oggi in lingua sottotitolato e, come tutte le attività del PT, completamente gratuito, che sarà invece intorno alle ore 9-9:10 nel sottoterra, quindi scesa la scalinata a sinistra. Questa sera, vi dicevo, abbiamo un ospite per la prima parte, quella di confronto, Clara Zanardi, che è qua al mio fianco, antropologa urbana, dottoranda a Venezia. Prima di passare a lei la parola, insomma, volevamo proporvi la classica classifica. Cioè, come voi sapete, anche chi fa magari il più schizzinoso nelle confronti delle attività, esperienze, iniziative turistiche, però alla fine, quando andiamo a visitare una città d'arte, tutti quanti, chi più platealmente e chi più di nascosto, si fa una ricerchina su Google, ho scritto vado a Budapest, Atene, Marrakesh e mi cerco le 10 cose che devi fare, le 10 esperienze che non puoi perdere, le 15 più 3 attività a cui non puoi rinunciare se vai nel mese giusto. E quindi oggi, invece che proporvi appunto una relazione un po' più accademicamente qualificata, abbiamo giocato collezionando fra di noi una sorta di classifica, la nostra personale classifica, sulle 7 più 1 attività di Disneyfication che possono essere, come dire, una buona introduzione all'argomento della serata. Giusto a titolo così introduttivo, se nella tradizione turistica l'evasione dalla consuetudine e quindi dal tran tran quotidiano era fatto attraverso la ricerca di qualcosa di più naturale e quindi di più genuino, quindi l'esperienza turistica nasce, muove e si trasforma alla ricerca di un qualcosa che non è semplicemente diverso dal reale, dall'esperito, ma ricerca una nuova naturalità, cioè di fronte all'artificio del presente, nel turismo, in ambito culturale, paesaggistico, gastronomico, ciascuno di noi ricercava, il moto era quello di ricercare in un luogo altro, in una temporalità altra, un'esperienza più gratificante perché più legata alla tradizione, alla genuinità appunto. Ecco, nella stagione invece della Disneyfication questo meccanismo viene completamente ribaltato. Cioè si passa dalla ricerca di un qualcosa che magari non è mai esistito ma che noi convochiamo attraverso una presunta età dell'oro, cioè il motto dell'esplorazione, che cos'è? È la ricerca di un qualcosa di un'esperienza in cui tu ambisci ad essere il primo uomo, che la prima donna che muove i passi in un luogo ancestrale, in un luogo che ancora porta con sé la memoria, i tratti e anche quindi i colori, i suoni, i rumori, i ritmi di un qualcosa che nel tuo quotidiano non, semplicemente non esiste più. Poco ci si interroga ovviamente su, come dire, la razionalità di questo tipo di esercizio, però il turismo nasce e si trasforma proprio attraverso questo tipo di metafora, diciamo così. Nella Disneyfication avviene il processo contrario. La sfida è quella di costruire un'esperienza squisitamente artefatta, però che in maniera anche caricaturale riesca a portarci in un altrove che non sta alle nostre spalle, ma che ammicca, se non al futuro o al domani, ammicca una dimensione aumentata della nostra esperienza, e quindi ha una dimensione di straordinarietà che ci qualifica attraverso appunto l'eccezionalità. Allora, la nostra classifica muoverà così i suoi passi. Al numero 7 abbiamo la Little Italy 4.0. Sapete che le Little Italy erano i quartieri, le città, alcuni più famosi di altri, ma ce n'è parecchi in giro per il mondo, in cui i migranti italiani, andando a trasferirsi e come dire, ricostruendo nell'altrove le loro comunità, provavano assieme alle relazioni sociali a portare con sé appunto le tradizioni, i modi di vita, la lingua, cioè a portare con sé tutto quello che era l'italianità nel mondo. Oggi avviene il processo contrario, i casi che vi portiamo ex aequo sono due. Uno è un centro commerciale di 80.000 metri quadrati costruito in Cina, a Wuqing. È un centro commerciale che tra l'altro recupera delle tradizioni anche abbastanza recenti. Se vedete ci sono il Castello Sforzesco e la galleria, quindi ricostruisce all'interno di un mall una italianità che non è più mi porto nel mio, come dire, nella mia borsa di cartone il mio modo di vivere nel paese di provenienza per mantenermi allacciato alla patria, alla casa natia, alla famiglia, ma è un'esperienza italiana 2.0, anzi qua abbiamo scritto 4.0 che ormai è il minimo che si può dichiarare, fatto però ad uso di turisti che vanno da tutt'altra parte, e tra un'esperienza d'acquisto e l'altra, quindi ci trovate all'interno Armani Shop, Ralph Lauren eccetera, però ricostruiscono e ritrovano appunto architetture della tradizione, peraltro ottocentesca, quindi vuol dire neanche così in là nel tempo. Allo stesso modo in Thailandia invece è stata ricostruita una villaggio con delle piazze, con la piazza del Palio. Anche qui non stiamo parlando immediatamente di un mall, ma di un villaggio e di una serie di piazze, di vie, di architetture, di giochi cromatici ricostruiti all'insegna del borgo italiano, perché il modo migliore di qualificare l'esperienza di acquisto è di creare un legame tra, come dire, la tradizione del luogo della socialità e l'attualità del centro commerciale, che così come si fa piazza nelle nostre, come dire, nelle città che di tutti i giorni, si fa anche piazza creandola ad hoc per un'esperienza appunto il più possibile gratificante d'acquisto. Al sesto posto Airbnbification, il caso che portiamo tra i tanti ignobili è quello di Napoli. Napoli è una città particolare perché, al di là dei numeri nella scontata gara che periodicamente arriva su social media e stampa tra Milano e Roma, nel tentativo di Milano di superare la capitale e di accreditarsi sul podio delle città turistiche al fianco di Venezia, Firenze e Roma, Napoli è la città, se non guardiamo il numero complessivo ma la tendenza, è la città che con più forza, appunto inseguendo Venezia, ha aumentato il numero di turisti nell'arco di 10-15 anni in una maniera esponenziale sostanzialmente. In particolare all'interno, diciamo così, dell'ecosistema turistico, l'esperienza di Airbnb è assolutamente interessante proprio a Napoli per una serie di motivi. Il primo è che Napoli, diversamente ad esempio da Milano, è una città in cui la stragrande maggioranza delle persone vivono in affitto e non vivono in case di proprietà. Il secondo è che nel nostro paese, e in particolare a Napoli, così come a Milano peraltro in questo caso, Airbnb non è una forma di costruzione di un secondo reddito basato sulle micro rendite familiari, sulla stanza in più e via discorrendo, ma la maggior parte degli appartamenti sono gestiti da soggetti che hanno tre o più appartamenti, e quindi il processo di accumulazione, di centralizzazione di questo tipo di business è estremamente chiaro, estremamente evidente. Il terzo, e il fatto ovviamente più legato alla città di Napoli, Voi saprete che come Genova e Napoli sono i due centri storici nell'Occidente più importanti per estensione. In particolare all'interno di alcuni dei quartieri spagnoli in particolare, ma in tanti dei rioni storici di Napoli, è proprio il gap, la distanza tra la fauna locale, indigena, e come dire, il tipo di esperienza ricercata dal turista a creare questa concentrazione in dei luoghi in cui, assieme al piacere, diciamo così, per i panorami, gli usi e i costumi, giocano anche il fattore, l'eccitazione carnivora, un po' del timore, dello sconosciuto, del vicolo, dello sporco, come dire, l'apprezzamento per tutto ciò che magari chi vive nel quotidiano quel tipo di situazione vive in maniera assolutamente diversa. E quindi è proprio non soltanto l'incontro, ma è lo scontro tra due, se vogliamo proprio esagerare, culture diverse a creare questo tipo di entusiasmo. In pochissimi mesi, da quando anche abbiamo poi insomma scattato questo tipo di istantanee, oggi da 7.000 siamo quasi a 10.000 appartamenti ed esperienze disponibili, e questo ci dà, come dire, un'idea del tasso di sostituzione, sostanzialmente una forma di gentrification non lineare, diversa magari da quella nota per i poli di trasformazione post-industriale della nostra città, però che porta alla cacciata, ovviamente, non soltanto dell'abitante inteso come essere umano, ma anche di quegli stessi modi di vita che vengono proposti. E quindi è una gentrification che tende non soltanto a escludere le persone, a rendere i prezzi inaccessibili, ma, tra virgolette, ad annullare la stessa causa del suo moto. Sempre in ambito di esperienze di Airbnbification, abbiamo poi l'esempio di Wonder Grottole. Grottole è un paesino in cui si è fatta forse la più curiosa delle esperienze, almeno che abbiamo conosciuto in Italia, peraltro abbastanza conosciuta. L'idea è quella di un hosting di Airbnb trimestrale, in cui sostanzialmente le persone vengono catturate con l'idea di andare non soltanto a conoscere le tradizioni di questo paesino ultra spopolato, ma a cui viene fatta una proposta molto più articolata nel tempo e come complessità. Da una parte, chi vince questa specie di concorso a premi diventerà il tutor dei successivi visitatori del paese, ma al tempo stesso diventa il tutore degli abitanti, cioè deve accompagnare l'abitante, che ovviamente il turista immagina sempre immerso nella postura perfetta, no? Quindi immerso nella tradizione, col grembiule sporco di farina a fare la pasta, con il forcone a tirar su le sterpaglie, con il trattore a sistemare con la chiave del 32 i pezzi meccanici sporco, tutto unto di grasso di motore, e deve accompagnare appunto l'ospitante nel cercare di qualificare, di migliorare questa esperienza, cioè di rendere la tradizione sempre più apprezzabile, sempre più tradizionale. Ovviamente questo non può che epurare di tutti gli elementi di realtà, di genuinità, quell'esperienza, ma cerca di renderla a misura, a occhio di turista. Cerca di trasformare quel che resta di un paese spopolato in un'esperienza sempre più appetibile per quello che è lo sguardo sociale che si porta dietro chi arriva e si aspetta in qualche misura una vera esperienza italiana. Al quinto posto passiamo da Airbnb ad Instagram, quindi siamo alla Instagramification, con le InstaWalk. Come sapete non parliamo non soltanto di esperienze di hosting, ma appunto di attività di hosting, ma proprio di esperienze. Dai luoghi più instagrammabili di Milano una giornata per diventare writer, tra le esperienze in vendita per il turista di domani c'è anche la possibilità di esperire la città non attraverso i classici tour, ancora con le architetture, le cose da vedere, insomma quelle cose lì che ormai sono un po', cioè, le sanno tutti, e quindi nessuno va veramente al Duomo piuttosto che a vedersi il castello dell'Ottocento in Avigli. Bisogna fare di più. Per fare di più, un'idea potrebbe essere quella di farsi accompagnare da un Instagrammer qualificato, esperto, certificato, che ha un numero adeguato di follower, e farsi una passeggiata con lui attraverso tutti quei luoghi che magari non dicono niente della milanesità, ma che sono quelli più apprezzabili attraverso quel tipo di immaginario fotografico. oppure si può fare una giornata sbombolettando con qualche esperto di public e street art, in cui prima si va a vedere una serie di pezzi e poi ti viene dato un A3 o un foglio A2 in cui tentare la tua prima sbombolata, fotografarla, mostrarla agli amici e diventare, tra vagoni della metropolitana, muri sgarrupati e qualche foglio appeso alla parete, diventare dei protagonisti della vera esperienza dello street artist in una città come Milano. Al quarto posto, dal titolo Chuck si gira, abbiamo invece un film, Under Tuscan Sun Town. È un film americano di qualche anno fa, ambientato a Cortona, che ha creato una sorta di fan base che ha cominciato a visitare il paese, a ricercare i luoghi delle proiezioni, un po' come sarà capitato a qualcuno, almeno nei weekend in famiglia, di andare a Brescello a vedere i luoghi di Don Camillo e Peppone. Qualcuno c'è andato, io ci sono andato. Vabbè, andate a fanculo. Allora, se voi andate a Brescello potete riconoscere, da fan diciamo della nota saga in bianco e nero, il balcone di Peppone, il carro armato, eccetera, e poi c'è il museo. Qui si è fatto molto di più. Da una parte l'arrivo di turisti ha portato ovviamente a una densificazione dell'impatto in stile del turismo invernale nelle Alpi italiane. Quindi tanta gente, sempre nelle stesse settimane, sovrapproduzione di rifiuti, di consumo d'acqua, cioè ha messo in crisi il paese questo tipo di attrattività. Dall'altra parte ha creato, come dire, una corsa alle acquisizioni in stile Albero Bello, turisti quindi che amano questo tipo di cinematografia, che specialmente dagli Stati Uniti sono accorsi, si sono innamorati del posto di cui non fregava più nessuno e hanno cominciato compulsivamente ad acquistare case, magari per renderle poi a loro volta instagrammabili, airbnficabili e via discorrendo, però sostanzialmente hanno creato un moto d'attenzione che ha portato gli stessi posti riconoscibili nelle proiezioni del film, quindi gli scorci, gli ambienti interni e via discorrendo, ad essere modificati a misura dell'immaginario costruito dal film e quindi ad essere a loro volta resi ancora più artificiosi per essere ancora più tradizionali. In questo, come dire, circolo vizioso, in questo cane che si morde la coda, che porta il paese a diventare sempre più innaturale, sempre più invivibile, e su questo appunto sono stati fatti documentari, attività di ricerca, mostre fotografiche e via discorrendo, ma è un bel esempio di un film importante soprattutto per un grande provatoriale di Raoul Bova. Al terzo posto, e siamo sul podio diciamo della nostra classifica, abbiamo la dismorfia. Qualcuno di voi, anche tra quelli che non sono andati a Brescello perché è fan di Don Camillo, però sicuramente sarà andato da un parrucchiere o un barbiere, lo so che nessuno dirà di sì, però qualcuno ci va, quello io non l'ho fatto, però portando la foto del modello giusto, indicandola sulla vetrina, portando il VIP che gli piace, l'attore, l'attrice, cioè portando un modello dicendo tu i capelli me li devi fare così, io voglio essere così. Ovviamente è tutta roba del Novecento, no? Estremamente passatista. Quello che si può fare oggi è qualcosa di meglio: si scarica un'app, ci si fa un bel selfie e poi si comincia attraverso, come dire, gli algoritmi, insomma il sistema di calcolo di quest'app, a modificare la propria foto per migliorarsi, con uno scopo ben preciso, che non è soltanto il fotoritocco, quello dei tre effetti, saturazione, tolgo due brufoli e via così, ma è migliorare i propri lineamenti per poter portare poi l'immagine nuova, l'immagine diciamo interna di te stesso, che non è, attenzione, il mio io più bello, ma il mio io più fotografabile, perché ovviamente stiamo ragionando di un'estetica che si basa, come dire, che nasce nel suo circolo proprio dal discorso della fotografia col selfie, la porto al chirurgo. Cioè non aspetto più di trovare un modello a cui ispirarmi esterno, ma cerco di costruire un modello di me stesso da presentare, ed è la formula più precisa possibile, perché possiamo immaginare che oggi sia un'app e domani gli do addirittura i dati, come dire, che lui può leggere in maniera diversa attraverso, da back-end, sapendo esattamente che cosa sono andato a ritoccare, di quanto voglio ritoccare, che cosa è possibile fare, quindi costruendo una relazione bionivoca attraverso questo tipo di calcoli per costruire una nuova immagine di se stessi chirurgica attraverso questo tipo di esperienza. Ci abbiamo anche l'audio o non ci abbiamo l'audio? Abbiamo perso l'audio, va bene. Al numero 2, e siamo praticamente ormai quasi addirittura d'arrivo perché siamo nel cuore del nostro podio, abbiamo un meraviglioso villaggio costruito da zero nella provincia di Buri al-Babas, in Bolu. Vabbè, insomma, è questo progetto del 2014 che prevedeva in una valle ancestrale mai toccata dalla mano umana di costruire un mega villaggio basato sulla tecnica dell'incastellamento medievale. Quindi un modello di finto castello, modello Disney semplificato, per vendere appartamenti che sono in maniera seriale, stile villette nordamericane, in maniera seriale costruiti in tutta la vallata per, come dire, un'esperienza esclusiva nel cuore di uno spazio non contaminato, come vedete, assolutamente pregevole anche da un punto di vista urbanistico. Il progetto purtroppo è fallito, nonostante ci fosse un po' di fondo cassa. Su questo si trovano, come su tutto il resto, insomma, abbastanza fonti da poter poi approfondire ciascuna di queste mirabili vicende. Però la cantieristica è rimasta a testimonianza in peritura dell'ambizione dell'immobiliare che ci ha regalato questo tipo di iniziativa, che aveva un totale di acquirenti, probabilmente anche gonfiati col solito meccanismo dei finti preacquisti per creare un battage pubblicitario di marketing territoriale, che poi invece è collassato su se stesso e già ci è abbandonato da 5 anni. In vetta al nostro podio siamo negli Emirati, nel cuore degli Emirati Arabi Uniti, e abbiamo invece il Tunnel Trappola, che non è il nome vero, ma ce lo siamo inventato come tutti gli altri. L'idea è questa: voi andate all'aeroporto di Dubai, il modello è sperimentale, ma possiamo scommettere che da qui a 5-10 anni sarà applicato con una certa facilità anche alle nostre latitudini. Entrate all'aeroporto di Dubai e entrate all'interno di un tunnel che è un po' come quelli degli acquari di Genova o Barcellona, no? Passi sotto, solo che a fianco, invece dell'acqua con i pesciolini, c'hai delle proiezioni. Queste proiezioni catturano, che come dire sono estremamente dinamiche, catturano la tua attenzione, quindi volgendo lo sguardo a destra, a sinistra, in alto, in basso, vieni ripreso a 360 gradi, e una volta uscito dal tunnel loro hanno un modello, diciamo, se non perfetto, estremamente preciso di tutta la tua fisionomia, e quindi hai sostanzialmente già fatto il check-in. Ma la cosa più divertente è che, come dire, lo step successivo di questo tipo di attività è anche il passaggio attraverso, avrete presente quantomeno le automobili negli aeroporti, nei gate, la nuova Audi, la nuova Volkswagen, il nuovo SUV. In questo caso abbiamo una Tesla. Tu giri attorno alla Tesla, puoi anche tocchicciarla, giocarla, ti appoggi dentro, apri il bagagliaio e ci appoggi la borsa. E quindi, oltre al check-in, nel momento in cui appoggi la borsa e loro ti fanno lo scan del bagaglio, vedi quanto pesa, basta attaccarci la clip e puoi imbarcare. Cioè, la pubblicità dell'automobile diventa anche l'espediente per fare la seconda parte del check-in, che è quella anche del controllo bagagli, perché l'auto è stata customizzata per permettere la verifica delle solite cose, cosa c'è dentro, cosa non c'è dentro, e quindi rendono l'esperienza stressante, perché poi questo è il cuore, tutto quello che non vi sto dicendo in maniera più seriosa, insomma, sta un po' in nuce a ciascuno di questi esempi, rendere un'esperienza stressante, snervante, di coda, eccetera, un'esperienza di gamification, cioè un'esperienza in cui la tua attenzione viene catturata, quindi il tempo passa più velocemente, e anche il fastidio del controllo, della perquisizione corporale, della richiesta di documenti, della verifica delle tue credenziali, del controllo di quanto c'è di più intimo e personale nel bagaglio, viene tutto traghettato all'interno di un'esperienza in cui la pubblicità raccontata nella maniera giusta, dall'automobile allo skyline, ti permette di vivere felicemente l'esperienza del controllo sociale. Ovviamente, come in tutte le classifiche che si rispettino, noi abbiamo fatto la 7 più 1 per chiudere fuori non classificato con un never ending classic, che è Expo, perché qua dentro non si riesce mai a fare una serata senza parlare di Expo, nonostante siamo arrivati nel 2019. E il motivo per cui l'abbiamo messa in conclusione di questa classifica è che, se pensate alla origine delle esposizioni, sono forse lo strumento di cattura, il dispositivo più antico e più moderno da un certo punto di vista di questo tipo di disneyfication della realtà. Le esposizioni nascono attraverso, come dire, all'interno della stagione infelicemente coloniale dell'Occidente, nascono come zoomani sostanzialmente, cioè nascono non soltanto come punto di presentazione, di anteprima delle novità in ambito tecnoscientifico, esplorazioni, conquiste, prodotti della modernità, eccetera, ma anche come luogo in cui venivano presentate quelle famose tradizioni da cui è partito il nostro breve viaggio. E quindi si prendevano i popoli indigeni, si prendevano i milanesi travestiti da antichi egiziani, si costruivano dei villaggi artefatti che non sono niente più e niente di meno, anche se un pochino più violenti, di quelle gabbie moderne che sono i mall, le piazze, le app, i tunnel, i castelli e tutto quello che vi abbiamo raccontato, però che veniva fatto sin dalla fine dell'Ottocento. Allora, in questa rincorsa, in questo passaggio dal tentativo di uscire dalla noia della consuetudine, che nella lettura di Henri Lefebvre, che più volte abbiamo scomodato nel percorso di Off Topic, l'evasione dalla tran tran quotidiano, cioè dalla routine, non poteva che avvenire attraverso la festa, mentre l'evento, quello che sta in nuce nella storia delle esposizioni fino ai giorni nostri, ma anche in tutte le 7+1 esperienze che vi abbiamo presentato questa sera, l'evento è precisamente la sussunzione della festa. Cioè, così come la festa è il momento, lo spazio-tempo della rottura dei ruoli, della normatività, e quindi il momento è il carnevale medievale in cui, come dire, per un tempo definito, a tempo determinato, vale tutto, e quindi la festa è uno spazio-tempo rivoluzionario. Allo stesso modo, invece, l'evento è il suo recupero, la sua sussunzione in chiave istituzionale. Cioè, ha sì uno spazio, un perimetro, ha sì una temporalità, però chi istituisce le norme non è chi sceglie di fare festa, ma è chi propone l'esperienza dell'evento attraverso non la ricerca della farlocca genuinità, ma almeno nel nostro presente del 2019, attraverso la ricerca di una nuova e piacevole artificiosità. Su questo passo la parola a Clara. No a progetti a lungo termine, sì allo spegnimento dell'interruttore e ad una immersione di divertimento in una città europea. Barcellona è la destinazione perfetta per i nati sotto questo segno. Tra passeggiate artistiche sulla Rambla, visioni oniriche sulla scia di Gaudì e feste esplosive a Barceloneta. E siamo arrivati al Sagittario. I Sagittario nel 2019 troveranno la loro meta più ideale in Londra, capitale multietnica e sempre in trasformazione, che vive giorno e notte con lo stesso ritmo, frenetico. Qui, dove non ci si annoia mai, il Sagittario potrà dar sfogo a tutte le sue passioni, liberandosi da angosce e preoccupazioni, ma soprattutto da schemi prefissati, facendo uscire l'animo punk tra tour nelle gallerie di Brixton o il mercatino di Camden Town. Affrontate un 2019 che promette follie. I viaggi di Radio 1. Bene, siamo arrivati al momento del viaggio del passato. Buonasera a tutti e a tutte. È un po' una responsabilità per me essere l'unica donna di questa sessione fantascientifica che accompagnerà Piano Terra in questi mesi. E quello con cui vi ho fatto iniziare è l'Oroscopo dei Viaggi, che è un podcast di Radio 1, comunque qualcosa che si è diffuso abbastanza, e ho voluto cominciare con questo per darvi un po' un'idea di quanto quella che Deramo chiama l'ideologia del turismo faccia parte di ciascuno di noi. Abo, non cercherò di sintetizzare tutto quello che vi ha proposto Abo, che è stata una carrellata enorme, eterogenea, e io nella vita mi occupo di turistificazione, però non è quello di cui vi vorrei parlare. Quello che vorrei provare a fare in questa serata, e in linea con il ciclo che Piano Terra sta ospitando, è provare a riflettere un po' insieme su quello che è la pratica turistica oggi, su quanto questa pratica ci appartiene, su quanto cerchiamo di smarcarcene e perché lo facciamo, e su come questa cosa, che storicamente è molto recente sta trasformando il nostro modo di vivere la quotidianità, di vivere le nostre città e di vivere le città altrui. Tipicamente quello che si fa è smarcare il turismo dal viaggio. Noi tendiamo a definirci viaggiatori e non turisti. Se voi andate a Parigi con uno zaino, il famoso backpacker, dormite in sacco a pelo, vi sentite molto più fighi di quello che arriva con l'EasyJet e si ferma due notti in hotel. E questo si sente molto più autentico, mentre sorseggia il suo caffè seduto a un tavolino di un boulevard del bus di americani che gli passa davanti e che si limitano a guardare la città dall'autobus. Allo stesso tempo magari gli americani dentro l'autobus guardano una comitiva di cinesi che fa fotografie di giapponesi e pensano che i giapponesi non sono in grado di comprendere quello che vedono, e quindi la loro esperienza dall'autobus è molto più autentica di quella che possono avere i giapponesi davanti a loro. E tendiamo sostanzialmente a entrare in una dinamica in cui le pratiche altrui ci sembrano sempre meno autentiche delle nostre, e cerchiamo delle nicchie in cui questo nostro desiderio profondo di vivere esperienze non disneyficate siano garantite. Ciascuno costruisce una sua nicchia, si può avere la montagna, si può andare a visitare, come magari posso fare io, i centri sociali di una città piuttosto che i monumenti o i musei. Però ciascuno di noi ricrea delle geografie secondo delle proprie scale valoriali in cui smarcarsi da esperienze disneyficate. Il problema forte qui è quello dell'autenticità. Quando noi cerchiamo un'esperienza autentica, cosa stiamo cercando? E in che contesto la stiamo cercando? Quella che vedete alle mie spalle è sono proprio una breve chiarificazione per capire di cosa parliamo quando parliamo di turismo. Normalmente la consideriamo una pratica che riguarda lo svago, quindi una dimensione non fondamentale, in un certo senso aleatoria della nostra esistenza. Qualcosa che riguarda i momenti di relax. In realtà il turismo è appunto una delle industrie più importanti della nostra epoca. Questa è la crescita che vedete dal 1950 fino ad oggi. Il turismo è cresciuto con un tasso del 7% annuo medio, quindi una crescita che nessun'altra forma economica ha avuto. Ad oggi questi dati non sono molto aggiornati, oggi il turismo conta ancora di più, però vale il 10% del PIL del mondo, generato dall'economia turistica, dall'industria turistica, un lavoro su 10 nel mondo, e conta il 7% dell'export mondiale. Come vedete, nelle categorie di export principali dell'economia mondiale, il turismo occupa il terzo posto, dietro a colossi quali i carburanti e i prodotti chimici, e supera per volume di affari che genera sia l'agroalimentare che quello che consideriamo tendenzialmente un colosso, come può essere l'industria automobilistica. Ecco, quindi purtroppo anche la nostra pratica turistica avviene dentro questo contesto. Quando noi facciamo turismo stiamo facendo un'attività che si iscrive all'interno di un'economia capitalistica che in qualche modo prende questa nostra pratica, soddisfa un nostro bisogno e lo fa nei binari di un'industria organizzata e costituita a livello mondiale. Perché vi dico questo? Perché sostanzialmente tendiamo a sentirci liberi nel momento in cui scegliamo la nostra meta, per esempio, o nel momento in cui decidiamo come trascorrere le nostre vacanze, dove farlo, con chi farlo, e cosa visitare e cosa non visitare. E nei fatti lo siamo, ciascuno di noi, nessuno di noi è obbligato ad andare in vacanza. Però esistono delle forme di condizionamento molto forte del nostro immaginario, che fanno sì, ad esempio, che alcune mete diventino in alcuni periodi storici quasi imprescindibili. Diciamo, io vengo da Venezia, Venezia lo è da molto tempo, non perché è naturalmente vocata al turismo o destinata al turismo, anche come usiamo le parole, una meta è una destinazione turistica, no, nessuna meta lo è per qualità proprie, ma lo diventa attraverso strategie promozionali e una forma di sviluppo che asseconda questa direzione. E quindi pensate, non so, in questi anni Lisbona, non so chi di voi è stato a Lisbona di recente o a Barcellona di recente, però sono due esempi di mete che sono state generate in relazione anche a processi economici in cui adesso mi addentro, però molto precisi. E questo segno che vedete lo vedrete anche nel film che seguirà, che è Alphaville, e Alphaville non vi farò nessun tipo di spoiler, però racconta proprio questa dialettica tra libertà e determinismo e necessità dell'azione. E questo segno ricorre molto spesso. In qualche modo gli abitanti di Alphaville, pur non percependosi determinati, agiscono all'interno di un sistema che ha degli indicatori, che gli indica cosa possono fare, cosa possono dire, come possono parlare. E questo è un segno curiosamente simile a quella freccia, è un'indicazione turistica, che indica un percorso che nella città individua dei punti che noi dobbiamo visitare o che si presume noi vorremmo visitare. Naturalmente questo non è un segno che ci obbliga, noi non dobbiamo andare a San Marco quando siamo a Venezia, non dobbiamo farlo, nessuno ci obbliga, però sono indicatori che condizionano fortemente il nostro muoverci. Nei fatti, in qualche modo, questo indicatore restringe la nostra capacità di immaginare che un altro itinerario sia possibile. E perché questo avviene? Questa è una domanda che vi pongo, a cui non ho una risposta. E ecco, un'altra riflessione che vorrei proporvi è quella su quanto il tipo di società in cui viviamo oggi stia facendo tutt'uno coi tratti della pratica turistica. E c'è uno scritto molto bello di Zygmunt Bauman che parla di sindrome turistica, the tourist syndrome, cioè il fatto che la nostra stessa esistenza nelle nostre società e nei nostri luoghi si stia strutturando secondo le forme che la pratica turistica ha. E un esempio è quello dei cittadini temporanei. E non so se a Milano questa retorica è così affermata come a Venezia, però il tipo di residenti che le città stanno competendo per avere sono residenti temporanei. Quindi qualcuno che appartiene a una classe sociale alta, che è un cosmopolita, quindi che prevalentemente lavora nei settori dell'immateriale o della conoscenza o della cultura. E la nostra visione sociale è quella di... il nostro immaginario è fortemente legato a un desiderio di mobilità. Ciascuno di noi pensa che viaggiare sia una forma di arricchimento anche del proprio status sociale, oltre che della propria interiorità. Se voi parlate con una persona che non ha mai viaggiato, che non si è mai mossa dal suo paese, è qualcosa che vi fa impressione, vi sembra che gli manchi una costituente fondamentale della sua personalità, della sua possibilità di capire e comprendere il mondo. E in qualche modo nel nostro dislocarci fisico continuo finiamo per essere temporanei anche nelle nostre città, nel momento in cui abbiamo un buco, ci muoviamo, ci spostiamo, i mesi che abbiamo liberi dal lavoro, per chi ha lavoro si va via, si cercano altre relazioni, qualcuno di noi ha fatto l'Erasmus, qualcuno di noi ha parenti che vivono in altri luoghi che non sanno quanto a lungo vivranno in quei luoghi. E in qualche modo, dice Bauman, siamo nei posti, ma non siamo mai del posto come turisti. Non ci radichiamo nei posti. La nostra visione è una visione che non cerca un'identità stabile territoriale in un luogo, ma che tende a mantenersi sempre le opzioni aperte. Ciascuno di noi sa che oggi vive qui, ma che un domani potrebbe voler vivere da un'altra parte. Questo lo viviamo come una possibilità, come qualcosa che ci arricchisce, come una risorsa. E quello che dice Bauman è che la tendenza è invece che a in qualche modo avere un percorso evolutivo di crescita individuale e sociale, in cui le esperienze ci servono per maturare. Quello che tendiamo a cercare è invece un accumulo di esperienze, che assomiglia un po' a uno zapping, così lo definisce Bauman. È come se il nostro modo di visitare i luoghi altri fosse uno scorrere di esperienze. Noi andiamo in Thailandia, proviamo la spiaggia della Thailandia, l'anno dopo andiamo in Perù, andiamo a Machu Picchu, l'anno dopo andiamo a fare volontariato in Kenya. E sono tutte esperienze che in qualche modo facciamo fatica a sintetizzare, che tendono a scorrere, ad accumularsi nella nostra storia. E Bauman, questo ecco, non riguarda solo il turismo. Bauman usa molto il paragone con un centro commerciale o con un supermercato, perché anche nel centro commerciale c'è una dinamica molto simile. Noi siamo liberi nel centro commerciale, noi siamo noi che possiamo muoverci, decidere cosa acquistare o dove andare. Però nei fatti la struttura del centro commerciale e il tipo di intreccio che c'è tra le forme di consumo, tra il mangiare, l'acquisto, la panchina, il bagno, tutto l'intreccio di esperienze che si possono fare all'interno di un centro commerciale sono in realtà pianificate, sono organizzate per fornirci quel tipo di esperienza. E in questo dove si colloca la nostra libertà e dove la nostra determinazione. E, in qualche modo, dice Bauman, viviamo come se stessimo attraversando gli scaffali di un supermercato. E noi quando passiamo gli scaffali del supermercato vediamo dei prodotti. Se quei prodotti non ci piacciono, non ci soddisfano, noi passiamo oltre. Ma nessuno di noi mette in discussione l'ordine stesso con cui sono disposti quei prodotti. Noi semplicemente passiamo oltre, ne troveremo di meglio. Quando noi viaggiamo, riproduciamo a volte questo meccanismo. Un posto non ci piace, noi non mettiamo in discussione la struttura politica sociale di quel posto. Noi andiamo in un altro posto, non ci torniamo, non lo consigliamo. In qualche modo il nostro agire nel viaggio è un agire non politico, è un agire che esula il conflitto, che esclude il conflitto, perché nella pratica turistica il conflitto non può esistere. E questo perché? Perché il conflitto avviene quando c'è una negoziazione collettiva delle norme sociali. E tu puoi essere interessato a negoziare le norme, a lottare perché cambino le norme del sistema in cui vivi, se ci vivi, se hai una relazione stabile con gli altri che negoziano con te quelle norme. Ma il turista è per essenza un soggetto non politico, è un soggetto in transito, non è un soggetto che permane, quindi non ha interesse nella negoziazione delle regole, non ha una responsabilità, ha un'azione estetica nel luogo, cioè cerca esperienze che gli piacciono, che gli diano gusto, ma non ha un impegno, un radicamento nel luogo che attraversa. Lo attraversa. E dice Bauman, questo tendiamo a trasportarlo da quando siamo turisti a anche i luoghi in cui abitiamo. E quindi in questo senso il turismo finirebbe per soddisfare in maniera surrogata un bisogno che però è autentico. Questo bisogno è quello di trovare una prossimità dell'alterità, cioè avvicinarsi a qualcosa che è diverso da noi, quindi che ci stimola, che ci sfida, che ci porta al confronto, ma allo stesso tempo non viverla come alterità con cui possiamo anche entrare in conflitto, ma viverla come qualcosa di vicino, qualcosa che rientra all'interno di un'umanità condivisa. E questo è un bisogno autentico, genuino dell'uomo, cioè profondo dell'uomo. Però il turismo dà a questo bisogno una risposta surrogata. Perché? Perché commercializza l'incontro con l'altro. Il turismo avviene, è un'industria, avviene all'interno di uno scambio economico. E la larga maggioranza degli incontri che voi avete quando siete in giro l'avete con persone che vi servono, con camerieri che vi consigliano cosa mangiare, con guide che vi raccontano come sono fatti i posti. È molto difficile entrare in contatto con persone che effettivamente vivono la quotidianità dei luoghi. E in questo senso il turista è una polarità di un continuo della mobilità in cui siamo tutti immersi, e il suo polo opposto è il migrante. E noi non lo vogliamo vedere, però il turismo riguarda una parte minoritaria dell'umanità, ed è un'umanità che si muove per scelta, per svago. C'è un'altra parte dell'umanità che si muove, non si muove per scelta, si muove per necessità, e i luoghi non fanno a gara per attrarlo, ma per respingerlo. E con questo tipo di mobilità comunque prima o poi dovremo confrontarci anche in quanto turisti, perché pensare che il nostro diritto alla mobilità, all'arricchimento personale sia sacrosanto, e rischia di dimenticare sempre l'altra polarità della mobilità, quella che non ha accesso ai luoghi in cui vorrebbe e in cui non vorrebbe transitare, in cui vorrebbe radicarsi. Quindi in qualche modo il vero soggetto politico che il turista non può essere, può esserlo il migrante, perché il migrante sì, entra nei nostri luoghi e pone in discussione le norme con cui noi viviamo, perché ne è parte integrante. E quindi il vero confronto con l'alterità, che noi in qualche modo continuamente cerchiamo, continuamente ricerchiamo nel turismo, in un incontro mercificato, plastificato con l'altro, potremmo averlo effettivamente con queste persone che vengono da noi e ci chiamano fortemente a un dialogo con la loro alterità. Vai a questo? Chiudo subito. No, questo ve l'ho mostrato perché secondo me è una buona sintesi di alcuni punti. Uno è quello della ricerca dell'autenticità e come presto questa autenticità possa degenerare all'interno di un sistema capitalistico. E l'altra, forse un po' più sottile, è quella sulla responsabilità individuale rispetto alle conseguenze di un processo che invece è strutturato in maniera sistemica. Quindi la stessa casa produttrice che ci fornisce gli strumenti per disneyficare il reale è anche quella che ci dice io ho preparato e impostato tutto l'impianto, però sei tu che puoi cancellare la foto, quindi la responsabilità è interamente su di te. Questa è una retorica a cui bisogna un po' fare attenzione, perché anche qui il rapporto tra libertà e determinazione, quanto forte è la mia libertà all'interno di una parentesi così ristretta. E l'ultimissimo video molto breve che vi mostro invece vi rilancia al film che segue, ma in un modo un po' curioso, perché Alphaville è anche il nome di una città utopica. Non so se qualcuno di voi ha visto La Zona, immagino di sì. A chi non l'ha visto lo consiglio molto. E in Brasile è stata costruita questa città che si chiama Alphaville, che è una città securitaria. E chiudo con questo perché mi riallaccio alla dicotomia, alla contraddizione che viviamo tra questo desiderio di turismo come forma di libertà e di incontro dell'altro e alla sua polarità, cioè come le stesse classi sociali che possono permettersi il turismo tendano invece poi nei loro territori a chiudersi in strutture securitarie con le guardie alle frontiere, ad alzare muri e ad escludere quell'alterità che cercano in forma surrogata, dislocandosi fisicamente in giro per il mondo, ad escluderla quando è proprio fuori dalla porta della loro casa. Todo mundo já ouviu falar de Alphaville, uma referência no mercado imobiliário. A marca é conhecida em todo o país pela expertise em planejamento urbano, preservação ambiental e infraestrutura. O que podemos dizer é que os empreendimentos da Alphaville são o lugar ideal para se viver. Alphaville oferece um padrão diferenciado de moradia, um espaço completamente planejado para aproveitar ao máximo o bem viver. E para que tudo isso seja possível, existem pilares que estão presentes em todos os empreendimentos da marca. Sono le 7:40, abbiamo una mezz'oretta per chiunque abbia intuizioni, suggerimenti, critiche, proposte, riflessioni, domande, c'è spazio. Allora, il turismo è considerato economicamente export perché è considerato il consumo dislocato, e, cioè il paese, questo è anche curioso, il paese, non so, il turista cinese che viene qui esporta un prodotto che è il suo consumatore e quindi è considerato proprio come categoria dell'export. È anche interessante per capire come ci considerano, non come soggettività ma come dislocatori mobili di consumo sostanzialmente. Aggiungerei, non è una domanda, ma insomma, oppure la domanda è: non bisognerebbe aggiungere all'insieme delle cose che avete detto anche questo fenomeno della disneyficazione dei centri storici delle grandi città? Cioè c'è un'omogenizzazione incredibile, cioè con le stesse marche del lusso che ormai esistono a Milano, a Parigi, a Praga. È tutto identico, cioè è come se fosse stata messa una patina sull'autenticità della storica e architettonica di questi centri. Ma forse un pochino emergeva, anche se sono andato a volo d'uccello, nell'esempio napoletano, un esempio che non ancora più pernicioso, che poi non riuscivamo a tradurre in gli esempi di prima. Non so se qualcuno di voi ha letto il volume di Iperborea, il monografico sull'Islanda. Vabbè, è uscita questa rivista monografica che esce un trimestrale, e in uno dei primi articoli del numero zero raccontava di un fenomeno che assomiglia un po' a quello delle farmacie. Non so se avete presente, no? Le farmacie antiche, bancali di legno, vasi di maiolica, così, le farmacie moderne, plastica, neon, eccetera. Le farmacie postmoderne, nuovamente un tipo di estetica che allude, che ammicca, che scimmiotta quella di un tempo, in una chiave esagerata, quasi grottesca, no? Cioè che emula, come un simulacro, quel tipo di autenticità, costruendo nel nostro immaginario una nuova autenticità. Questo numero raccontava dei baretti di questo paesino sfigato vicino Reykjavik, e l'autore dice: io mi ricordo il mio paese come assolutamente banale, ma da quando c'è il turismo il mio paese è assolutamente tradizionale. Cioè ciascuno delle località di accoglienza, e quindi le casette con le stanzine, il baretto sotto casa, il carpentiere, è tutto diventato ligneo, è tutto diventato storico, è tutto diventato un po' più antico, è tutto diventato come il turista che arriva qui si immagina per avere un'esperienza gratificante. Solo che io, nella mia gioventù di punk, mi ricordo soltanto la noia di un posto costruito negli anni 60. Non mi ricordo nessuna di queste attività, cioè non riallaccio niente del mio presente ai miei ricordi d'infanzia. È stata costruita nella modernità una nuova autenticità, e quindi non soltanto c'è questo meccanismo che va a fagocitare i centri storici, ma c'è il tentativo di costruire una nuova storicità, che forse è un punto di avanzamento ancora più improbabile. Posso aggiungere solo una cosa? Sì, diciamo che il principio della disneyficazione è proprio quello di garantire un equilibrio tra standardizzazione internazionale e tipicità, in un'ottica proprio economica di differenziazione del prodotto. Cioè Disneyland funziona perché tematizza in maniera coerente uno spazio urbano, cercando di portarlo a un livello di omogeneità che in sé uno spazio urbano difficilmente ha, e che corrisponda all'immaginario che il turista ha e che la città promuove di sé. E quindi per farlo deve recuperare proprio queste tradizioni, anche quando sono uscite dalla loro storicità, e farlo però all'interno di una struttura che garantisce efficienza, prevedibilità, controllo, sicurezza, perché il turista richiede un certo standard di esperienza, vuole un'alterità, ma la vuole fino a un certo punto, la vuole che gli garantisca la sicurezza e che gli garantisca sostanzialmente un esotico senza pericolo. Ma infatti in questo senso pensavo che oltre alla risposta al desiderio di appunto incontrare l'altro, trovare qualcosa di esotico, c'è anche quella di farsi direzionare per non dover scegliere, quindi delegare di tutto per tutto, anche appunto dove anche per una sorta forse di paura di perdersi, non so come dire, come se ci si sentisse dei bambini che senza avere una direzione possono incappare in qualche cosa di molto pericoloso, non so come dire, quindi c'è un po' questo doppio aspetto. Sì, a me mi viene una riflessione, e le parole che ha usato è la responsabilità. Cioè io vado a San Marco, vedo tante frecce, le frecce mi dicono che devo andare di là, ma io posso scegliere, cioè non sono obbligato, però guarda caso la maggior parte poi sceglie. È un tema che come dire, a me mi è molto caro negli ultimi anni, dove vedo che c'è questa idea sempre come di complottismo generale, c'è qualcuno dall'alto che pensa di fare delle azioni in maniera tale che queste azioni gli procurino del denaro e gli individui vengono in qualche modo pilotati. Invece la mia impressione è che c'è una responsabilità individuale, nel senso che noto che le persone, quando poi vengono al dunque di fare una scelta, che ne so, hai la tua casetta e la puoi monetizzare perché nel tuo paesino diventa la possibilità di poterla dare in affitto, nonostante magari prima il turismo di qua di là, a un certo punto la necessità di così di avere del denaro aderisci in fretta, no, a un sistema capitalistico, e quindi alla fine si tratta, come dire, di vedere questo senso di responsabilità, cioè alla fine chi è responsabile di questo, no, è un tema molto profondo, cioè alla fine chi è responsabile, perché spesso magari quelli là volevano rendere turistica quella città, si sono messi lì un tavolino, allora, ma tu cosa hai fatto per far sì che quella cosa non accadesse, e tu cosa hai fatto, e alla fine come dire, si discute qua su come dovrebbe essere, come dovrebbe essere il turista, non un turista come siamo abituati adesso, dove arriva, ti hanno costruito il villaggio bello pronto eccetera, e come non esiste il turista, ognuno ha un'idea di questo turista, poi di fatto quando deve fare la scelta la maggior parte, sembra almeno così in Occidente, va in quella direzione, e io mi ritrovo sempre spaesato, perché da una parte apprezzo moltissimo queste riflessioni, dall'altra parte dico cacchio, è come se si avesse un'idea bella dell'uomo, però quest'uomo che non aderisce va da un'altra parte, no, riesco a porre il quesito oppure sono stato confuso? No, lo dico a te perché mi sembrava che fosse il tema centrale che avessi proprio. Ti faccio un esempio sulla responsabilità individuale. A Venezia oggi per le associazioni che lavorano nella città a tutela della residenzialità, chi ha un B&B è considerato un nemico. Cioè la gente che ha un B&B non lo dice pubblicamente, si vergogna, perché la cosa è giudicata in maniera negativa in città. In realtà però oggi a Venezia avere un B&B è la scelta più razionale che tu possa fare. Non è una questione di responsabilità, saresti stupido a non farlo, perché dovresti rinunciare a 2-3 mila euro al mese? Sarebbe assurdo. Allora il problema è, non possiamo scaricare sull'etica individuale un problema politico sistemico, cioè è il tipo di regole che ti consente di trarre un vantaggio, una disparità così forte tra un affitto residenziale e un affitto turistico, e ti rende possibile farlo senza nessuna difficoltà. È questo sistema che è dato da norme precise approvate da determinati consigli comunali e regionali, che ha la responsabilità di aver costruito il sistema in cui tu puoi operare la tua scelta. Perché ti ha costruito il sistema? Nel senso che la regione Veneto, non bisogna andare troppo lontano, non è complotto, sono processi storici. Chiaramente puoi imputare ai veneziani di non aver reagito nel momento dell'approvazione di queste norme. Sappiamo però quanto poco è il potere della società civile oggi, purtroppo, quanta fatica facciamo a vederci garantiti i minimi obiettivi delle nostre lotte, è un problema enorme. Sì, sì, no, non so se ti ha risposto. Lo vedo, però contemporaneamente, cioè come dire, in passato ci sono stati momenti dove le persone, come dire, hanno lottato. Come dire, aumentava il pane, la gente andava in piazza, adesso in realtà adesso si lamentano sui social, voglio dire, e quella è responsabilità individuale, cioè voglia dire, cioè il sistema così, vabbè, però tu all'interno di questo sistema hai uno spazio di movimento, ma vabbè, finisco qua perché se no diventa un po' stereo. Io tenterei però soltanto una micro risposta di ordine diverso. Cioè, la sfida di questi incontri è proprio quella di dire, diciamo così, prendiamo di petto i massimi sistemi, cioè confrontiamoci con un palinsesto di temi che ci pongono di fronte al problema dell'ineluttabilità. Cioè, ci sono dei fenomeni troppo più grossi di noi, di fronte a cui, per esempio, una risposta individuale è sicuramente importante, cioè l'etica dell'individuo che sceglie di operare un certo tipo di decisione piuttosto che un'altra, chiaramente ha un ruolo per sentirsi bene lui nelle relazioni con le persone, cioè crea uno, come dire, genera uno stile di vita che ha un'influenza. Però attenzione, perché quello che stiamo dicendo stasera è che di fronte al fenomeno all'immaginario turistico, per questo tipo di risposta c'è una soluzione all'interno del mercato del turismo. Cioè, per ciascun tipo di nicchia, quanto più sensibile, sostenibile, genuina, eccetera, a un certo punto il mercato trova una strategia per dire: attenzione, giusto, abbiamo una soluzione anche per te. Mentre invece il discorso collettivo, che chiaramente non è in contraddizione, cioè la scelta individuale è una scelta importante, però il tema è che di fronte a questo tipo appunto di scelte politiche che non sono che non sono complotti, ma sono, come dire, il risultato e l'accumulazione di scelte, non è un caso che tante città si stiano opponendo e stiano ponendo anche dei freni che non sono istintivi, ma sono espressione della negoziazione con delle lotte sociali per arginare questo tipo di fenomeni. Airbnb su tutti, però diciamo è soltanto una keyword utile in questo momento, e quindi chiaramente c'è, cioè, l'etica dell'individuo non deve essere portata, diciamo così, sul palmo di mano prima di un discorso sociale, perché porta alla pubblicità di Huawei, che secondo me è meravigliosa, nel senso che è perfetta, poi in questo momento è straordinaria, però poi alla fine è estremamente perniciosa, cioè ti sta dicendo: io la macchina te l'ho fatta, ora cazzi tuoi utilizzarla per bene, no? Certo. È tutto nelle tue mani, col cavolo. Cioè, come dire, il problema lo vedo quando viene estremizzato il discorso sociale, dove ci uniamo insieme verso una direzione, poi magari contemporaneamente, quando c'è, io esco di qua, magari parliamo, poi appena esco c'è la possibilità di esprimere le mie idee a livello individuale, cioè non è che ogni volta i due livelli si integrano. E spesso, cioè, il discorso regge, poi però quando mi propongono, no, esco fuori, guarda, ma il tuo appartamentino, io un attimo lo affitto, dico, ma cavolo, a me conviene, figurati, io non voglio rinunciare a Milano, sarei lo stupido. Lo stupido chi è che lo dice? Lo dicono gli altri. Stupido, finisco, basta. Anche parlate senza... Voce. Il discorso è che è già disneyficato, Venezia è già disneyficata, per questo motivo tu hai una doppia scelta. Se non fosse già disneyficata, ne avresti una sola, che è quella che ti impongono di avere. Secondo me il limite è quello, cioè da turista mi viene in mente che sia nei paesi, diciamo, dell'est, sia nei paesi come gli Stati Uniti, tu al tuo ingresso, la prima volta che sono andato per lavoro negli Stati Uniti, mi hanno detto: mi raccomando, quando arrivi di che sei un turista, non dire che sei lì per lavoro, perché altrimenti è un casino, cioè ci metteranno un sacco a farti entrare e tutto il resto, no? Là c'era già una prima scrematura in un paese come gli Stati Uniti. Se vai in Cina, tu non hai visto, se non gli dici prima tre quarti del viaggio, no scusa, un terzo, due terzi del viaggio, dove vai, gli alberghi in cui sarai, eccetera, eccetera. È già disneificato, tu non hai una scelta. Se vai in Birmania, che è stata chiusa per decenni, quindi tu non avevi la scelta di andare in quel paese, nel momento in cui l'hanno aperto perché era disneificato. Cioè, quindi il discorso è, se io per esempio sono un turista a cui non piace la tranquillità, e invece piace il conflitto e, diciamo, è degli imprevisti, in un viaggio, molte volte, come in questi casi, per esempio la Birmania, ho trovato difficoltà a cercare di capire cosa c'è di autentico e cosa invece è una cortina, no? Che sto guardando. L'esempio classico è: in Birmania tu puoi andare solo dove dicono loro. Se tu arrivi nella zona dove poi iniziano tutte le piantagioni, no? Intorno, dove è tutto militarizzato, non ci puoi andare, così come non puoi affittare una macchina, a differenza di altri paesi dove puoi affittare una macchina e girare. Cioè, quindi è un posto dove ti costringono ad andare dove dici tu. Se ci provi ad andare a pagare qualcuno per farti portare, non ce la fai. Cioè, voglio dire, conosco altre persone che magari sono andate per fare ricerche e comunque hanno avuto difficoltà. Cioè, quindi io credo che il limite da capire sia che la disneificazione c'è già, Nel momento in cui pensiamo di avere una doppia scelta, cioè la freccia di San Marco di là, ma sì, io vado dall'altra parte, perché è disnificata anche l'altra parte? Io direi che è disnificato, come dire, la nostra impostazione, forse, allora, a questo punto, nel senso che non abbiamo fatto niente per arginarla e non facciamo niente, perché quando poi tocca a noi... Il margine credo che ci sia sempre, però appunto all'interno del tuo sistema è più facile muoverti, come diceva prima. Da turista diventa difficile, anche se magari uno in un posto si ferma per mesi, magari per anni. Però anche i ricercatori che si sono fermati anni in un posto, prima di fare magari scoprire certe cose che potevano scoprire in un giorno, ci hanno messo anni, per dire, no? Per entrare in rituali, che ne so, segreti, popolazioni o roba del genere. Qua stiamo andando veramente da un'altra parte, però credo che sia un problema sistemico e dei governi, anche quello del turismo. Allora, se posso vi aggiungerei un'altra esperienza da Venezia, che così potete accumularle come esperienze turistiche non vissute se non per intermediata persona. A Venezia c'è anche il tour dei luoghi che resistono, per cui siccome faccio parte di un'associazione civica, ci è capitato che un'agenzia di viaggi ci proponesse di far parte, di far parte del tour per Veneti, di conoscenza delle zone della città di Venezia che resistono, tra cui la resistenza stessa alla turistificazione. Credo che questa esperienzialità sia il punto fondamentale, cioè probabilmente, e riprendo una cosa che hai detto tu, un certo gusto omologato dal punto di vista, diciamo, della domanda, a un certo gusto omologato corrisponde dal punto di vista della domanda, corrisponde anche dal punto di vista dell'offerta una disponibilità diciamo altrettanto omologata. Cioè il punto d'incontro del mercato, effettivamente, sebbene sia stato deciso da delle codificazioni che sono sotto gli occhi di tutti, nel caso della Regione Veneto, la Regione Veneto ha stabilito ad un certo punto che l'affitto turistico fosse equivalente all'affitto residenziale. Quindi tutte le differenze tra queste due categorie all'improvviso sparissero. Questo ha aperto ovviamente la possibilità che nel centro storico di Venezia i 6.000 appartamenti che erano locati a residenti diventassero tutti 6.000 appartamenti locati a turisti, perché ha un margine di profittabilità per il proprietario di circa un rapporto di circa 1 a 3, 1 a 4. Quindi automaticamente una riforma normativa ha fatto sì che si aprisse quel vaso di Pandora. È chiaro che di fronte a questo meccanismo è difficile chiedere ai singoli di essere asceti e di rinunciare al profitto. È più facile pensare di poter operare un controllo politico, che in quel caso non si è posto, perché siamo, e questo è un punto di contatto con quello che dici tu, siamo, ci sentiamo corresponsabili, esattamente come quel ragazzino che a un certo punto rinuncia anche alla sua fama nel video di Huawei, no? Uno dei punti di quel video è che quel ragazzino rinuncia anche a quel fotogramma che lui immagina, in cui lui diventa famoso come scopritore dell'animale strano. Ecco, questa disponibilità alla rinuncia della propria affermazione è il punto debole di quella narrazione. Probabilmente il ragazzino, come ciascuno di noi, di fronte a un profitto che è 4 volte più alto di quello che abbiamo affittando dei residenti, non rinuncerebbe a quella fetta di appropriazione di plusvalore. Ecco, nello stesso tempo, socialmente, essendo consumatori anche di Airbnb, e lo siamo stati, immagino, quasi tutti qui dentro, abbiamo una sorta di tolleranza, di accettazione, di noi riteniamo una cosa smart, e facendo così in qualche modo diminuiamo la nostra capacità di interagire con queste piattaforme, che in realtà però hanno un feedback molto importante sulla nostra esistenza. Le città come Venezia e Firenze se ne sono accorte, perché all'inizio ovviamente noi eravamo abbastanza passivi. Adesso è nata una rete nazionale, SET, ne parlo così per chi tra voi è curioso, che pone proprio il problema della turistificazione e che, dove questi sono, diventano temi centrali. Ci accorgiamo che città come Venezia e Firenze, dove il processo è andato già più avanti, sono molto più sensibili anche alle variabili, non dico etiche, ma filosofiche del problema. Mentre città che sono di primo arrivo della turistificazione sono, diciamo, ancora come eravamo noi una quindicina d'anni fa, sono ancora lì a giudicare se si tratta di qualcosa di sistemico o no. Ecco, per cui io vi riporto qui questa discussione, perché una parte probabilmente anche delle vostre esperienze ne sarà presto condizionata di questa trasformazione. Da questa trasformazione, se a Torino il turismo cresce del 14% in pochi anni, è inutile immaginare che la trasformazione del balloon sia estranea a questa crescita. Sono due fenomeni correlati. Uno sgombero dell'asilo. Ecco, scusate se ho portato in un altro terreno. Io ho una curiosità, tu appunto prima hai detto che non esiste mete, ma ognuno si disegna la propria geografia per appunto il suo viaggio, per il suo turismo. E appunto parlando di un turista non politico, tu hai detto come quando visiti una città fai un itinerario, tra virgolette, dei centri sociali. Quindi anche un po', vabbè, poi tu fai lavoro di ricerca, quindi è tutt'altra consapevolezza del problema. E appunto sembra un po' un simbolo, no? Nel senso buono. Io ti volevo portare la mia esperienza e chiederti se anche voi due avete fatto cose simili. Io ho incominciato a visitare i comuni, l'ultima che ho visitato a dicembre di Salento, la comune libertaria, ispirazione anarchica, Urupia, Urupia. Sì. E volevo appunto sapere se avete esperienze di questo tipo e come si inseriscono nella vostra, diciamo, tra virgolette, teorizzazione del problema. Io la domanda è spinosa, ovviamente, e riguarda le contraddizioni individuali. E, per esempio, io non uso Airbnb, questo mi crea una serie di problemi sovrumani, ovviamente. E, ecco, sul fatto che sia contraddittorio dirti che visitare i centri sociali non è politica, io a livello mio individuale non credo, non lo trovo contraddittorio. Cioè, un conto è visitare un centro sociale e un conto è fare parte, anche per un periodo limitato, però comunque entrare, dormire lì, dare una mano in cucina, quelle cose che abbiamo fatto tutti, e stare lì per un periodo di tempo che ti consente di entrare in relazione col quartiere in cui il centro sociale fa attività, con le persone, con le loro dinamiche. Questa è un'attività politica. Se tu vai all'asilo, alla cena all'asilo, non so più, e se tu andavi all'asilo, come ho fatto io qualche mese fa, alla cena del martedì, io ero una turista lì, questo era abbastanza evidente, nonostante venissi da esperienze magari simili in altre città, però non avevo un contatto politico, costruttivo, creativo con le persone che erano lì, fruivo di un evento del posto. Questo è un altro discorso, spesso anche i centri sociali producono eventi, lo fanno perché è uno dei pochi modi con cui è poi possibile attirare persone che non sono del tuo cerchio ristretto. Questo apre però un altro capitolo. Sull'esperienza delle comuni che hai fatto tu è diverso, perché se tu sei rimasto, non so, un'estate a Urupia, chiaramente avrai avuto un'esperienza diversa, è qualcosa che magari resterà in contatto con loro, o è qualcosa che ti ha cambiato, che ti ha trasformato, che tu riporterai poi nel tuo territorio. Questa è un'azione politica. Non posso darti io la ricetta di cosa è politico, cosa non lo è, però se tu fai un giro dei centri sociali, vai a vederti il concertino reggae, poi vai a mangiare di là, non stai facendo politica, stai fruendo di eventi forniti da spazi politici, però la tua attività è di fruitore. Poi noi siamo anche una nicchia, cioè noi stessi siamo... Noi abbiamo ospitato compagni francesi che venivano a fare i turisti a Venezia, cioè andavano al mare al Lido a farsi il bagno, poi la sera cucinavamo insieme, però sono sottili i confini, non, è difficile, molto difficile smarcare, però secondo me porsi la questione è già interessante. Ma io personalmente non sono per un'etica della cattolica della rinuncia, cioè, nel senso, credo che la sfida sia quella di cambiare il proprio sguardo sociale. Il nostro tasso di assuefazione ai fenomeni su cui ci siamo un po' baloccati stasera è problematico, non perché poi ciascuno di noi gode nel pubblicare le foto e vedere che ci sono tanti like. Il problema interviene quando non arrivano i like e tu non stai bene, cioè è quello lo psicodramma. Quindi boh, io non, siccome anche per stare all'interno di un certo discorso, è chiaro che tutti noi, chi più chi meno, ma cioè fanno di queste esperienze, ricercano la noi cerchiamo le nostre micro nicchie, la nostra comfort zone, plausibilmente radicale, minoritaria, settaria, ma plutomassonica, cioè cerchiamo una roba sempre più che spinga in là la possibilità di costruire un orizzonte di separazione appunto tra il turismo e la viandanza, tra l'esperienza che biasimi e quella che invece con cui empatizzi. Poi cioè, nel senso, il senso di questa roba sulla fine dell'uomo era rivendicare con orgoglio, senza, come dire, istinti depressivi, che siamo in una situazione di merda. Cioè, nel senso che è difficile tentare, in un mondo le cui regole sono estremamente condivise, è difficile tentare un'evasione che non sia quella del riconoscimento che c'è un altrove che però non è in uno spazio non turistificato, ma in una figura sociale non turistificata, quale può essere quella del migrante, no? Nel senso, di chi rincorre, come dire, una forma di mobilità molto più moderata della nostra radicalità di turista, ma non trova un orizzonte così di ospitalità. C'è un'ultima cosa? Qualcuno? Nessuno? Sì. Uno, due. Sì, ma due brevi. Prego. No, è la domanda. Cioè, voglio dire, abbiamo condiviso, abbiamo visto, ma quali sono le linee direttrici per, spero, penso, collettivamente, per stravolgere questa tendenza? Non ci sono. Avanti. A me è successa una cosa strana 3 anni fa, cioè 4 anni fa, ero andato, 4 anni fa ero andato in un ecovillaggio in Germania per cercare di vedere se c'era un altro modo di vivere rispetto a tutte le modalità che la società capitalistica ci offre, e in seguito a questo incontro di stasera mi sono reso conto ancora di più di quello che mi ero reso conto allora, che in realtà in quel posto le persone che cercavano di vedere, di capire come vivevano gli abitanti di questo villaggio, erano dei turisti, e quindi tu quando andavi là venivi trattato comunque da turista, e cioè se volevi stare per un breve tempo, se volevi stare per qualche anno, allora il trattamento per le persone era diverso, e quindi anche, diciamo, i posti che magari uno pensa che in cui tu vai a cercare qualcosa di diverso dalla società, sono talmente stati condizionati dalla società in cui viviamo che addirittura ripetono gli stessi schemi. Ma magari è solo un modo di farti vedere, cioè i rainbow flattery sono gli sport rigidi dove se vai provi quell'esperienza lì come loro, che sono cazzi tuoi. Negli altri magari ci sta bene che ti facciano vedere un esempio. Non ti vincola, ovvio che non vai lì con il cuore da sgommare perché ti mandano a fanculo in 3 secondi, però non possono essere rigidamente accoglienti perché ti fanno vedere, tu vai lì, giustamente tu vai per curiosare, non vai lì e vuoi stare 4 mesi a fare un'esperienza lì. Se ti fermi 4 mesi a fare un'esperienza lì, probabilmente hai una serie di regole a cui aderire. Se tu da esterno vai, l'unico posto dove puoi andare e fare un'esperienza integralista è un rainbow, e ai rainbow comunque non ci vai così per caso, perché l'hai sentito dire, perché se no non ci arrivi manco morto. E già dentro lì ci sono scarsi anche all'interno dei vari aderenti per il livello di rigidità. Scusa parentesi. togliere gli alloggi che avevano delle colonie israeliane. E rispetto a questo, come si può leggere questo fenomeno qui? Nel senso, è un processo di greenwashing che come leggi tu? Su Airbnb in Cisgiordania io credo fortemente che sia un'operazione di greenwashing, e evidentemente hanno calcolato che gli conveniva a livello di immagine. Era emerso poco prima lo scandalo rispetto a, se non mi ricordo che giornale internazionale, in cui risultava che le piattaforme di affittanza turistica facessero affari sui territori occupati illegalmente, e questo lì aveva provocato un danno di immagine a cui loro hanno reagito anticipando, quindi facendo questa forzatura. Evidentemente per il tipo di pubblico, di clientela che hanno loro, gli conveniva questa operazione. Airbnb non ha nessun tipo di etica aziendale di sorta, è una multinazionale quotata in borsa, il suo unico fine è fare profitti, nonché in tutto il mondo stanno facendo lobbying in maniera illegale, un tipo di lobbying che si chiama astroturfing, cioè mascherandosi nelle comunità locali, fingendo che le comunità locali supportino la causa politica di Airbnb e facendo una pressione molto forte sulle amministrazioni a tutti i livelli, nonché sul Parlamento europeo, per bloccare tutti i tentativi di legislazione che partono dal basso del fenomeno. Mi ricordi il nome del lobbying? Astroturfing significa mascherarsi da opposizione autentica sorta dal basso e fingere che l'opposizione sia spontanea e non guidata, guidata, istruita, indottrinata dalla multinazionale. Io ovviamente invece non ho nessuna risposta, però secondo me un esercizio a cui dovremmo stare attenti è quello di non cadere nella facile immedesimazione di cui mi pare che per un po' siamo stati preda anche questa sera. Cioè, considerandoci tutti alla fine cittadini e quindi turisti, siamo alla domanda che cosa noi dobbiamo fare. In parte qualcosa era stato detto in termini appunto di scelte individuali, in termini di organizzazione politica, però io credo che si possa anche dare sostegno, supporto, visibilità ad altre strategie di resistenza. Per esempio, molte delle comuni italiane, e questo non da, diciamo, non dalla loro nascita, per esempio nel caso di Rupia non dal 95, ma da 10 anni buoni, hanno cambiato il loro, mutato per regolamento interno il loro sistema di accoglienza. Cioè, un percorso di accesso, diciamo così, alla vita da comunarda lungo, e che prevede il consenso della comunità, che prevede un tempo, diciamo così, di esperienza di vita in comune molto lungo, la possibilità di un ospitaggio breve non più gratuito e un no alle visite in giornata, cosa che prima non avveniva. Cioè, le comuni, diciamo così, il fenomeno turistico è il fenomeno che porta le articolazioni urbane a diffondersi in maniera, al di là diciamo delle città turistiche su cui ci siamo concentrati, però negli altri luoghi, a diffondersi in maniera sempre più efficace, subordinando l'economia e i modi di vita di ciò che sta al di fuori della metropoli. E quindi dare, come dire, consistenza a una lotta, per esempio, che si oppone contro la civilizzazione della Val Grande, che sta lì e nessuno se la impippa da tanti anni, o contro un nuovo impianto di risalita all'Alpe d'Evero, per parlare di posti qua vicini, o che agevola la ricostruzione di un forno comune, cioè di una forma di organizzazione della vita civile legata all'uso, come dire, civico funzionale della proprietà e non all'uso invece privato dello spazio. Quindi, diciamo, forme di resistenza che tutelano il modo di vita diverso. A me sembrano sempre delle forme di opposizione alla turistificazione, prima che del luogo, alla turistificazione intesa come omologazione definitiva del nostro approccio, diciamo così, ai luoghi che visitiamo. Quindi credo che strategie di resistenza ce ne siano innumerevoli. Ovviamente oggi siamo nel nostro mood domenicale della fine dell'uomo, e quindi ci tenevamo a mostrarvi, come dire, gli aspetti più assurdi, se vogliamo, eppure estremamente presenti anche nelle nostre vite. E per tornare e concludere, visto che sostanzialmente credo sia pronto, quello che abbiamo fatto la scorsa volta è stato registrare la serata e renderla disponibile dopo qualche settimana in un podcast. Quindi voi intanto andate sul sito e trovate la registrazione della scorsa puntata. A breve troverete anche la registrazione di questa puntata con una bella sigla. nei giorni che ci separano dal prossimo appuntamento, che sarà sempre qui di domenica alle 18.30, il 12 marzo, pubblicheremo una serie di materiali di avvicinamento per chi volesse proprio trapanarsi di riflessioni depressive. L'ultima cosa che volevo aggiungere è che per stare diciamo su questo fil rouge dell'ineluttabilità, il tema del prossimo incontro appunto di metà marzo in compagnia di Emanuele Leonardi ha come titolo Antropocene o Capitalocene, cioè tra le tante come dire cessioni di responsabilità all'individuo, che è una responsabilità deresponsabilizzante, cioè nel senso che ti mette di fronte a un problema troppo grosso per essere affrontato e che quindi ti costringe all'immobilità, c'è questa lettura, questa chiave di lettura della età, della fase storica che viviamo, definita antropocene, cioè l'età in cui gli impatti sociali, ambientali, insomma gli impatti che abbiamo sull'ecologia che ci ospita sono talmente irreversibili, talmente importanti da trasformare la fisica e la chimica del pianeta. Cioè viviamo nella stagione in cui l'uomo ha determinato la trasformazione. L'incontro ha la sfida di raccontare, cosa su cui in tanti, non soltanto in questo paese fortunatamente, si stanno impegnando, che quella è una parola sbagliata e che forse utilizzare dei lemmi differenti che non sono sinonimi, quali capitalocene, ci aiuta a ricostruire che non è che tutta l'umanità è responsabile allo stesso modo e nello stesso tempo di questa trasformazione che tutti quanti chiaramente viviamo, ma che probabilmente abbiamo dei ruoli diversi, abbiamo vissuto l'industrializzazione in tempi diversi e ancora oggi le differenze sociali, insomma, ci indicano quali siano le possibili strategie di resistenza. Su questo mi taccio, credo che sia pronto da mangiare, vi ringrazio tutti per questa serata.